Biblioteca Provinciale Claudio Busta, che come sapete da un paio di anni, da quasi due anni, ha trovato la sua sede, la propria sede qua sotto al primo piano, piano terra, diciamo, con l'entrata d'angolo via Marconi. La biblioteca si prefigge da sempre come missione quella di favorire la conoscenza, una conoscenza che deve maturare individualmente, quindi mette a disposizione di tutte le persone i libri, i documenti e quant'altro possa essere utile per una propria crescita personale e una propria, diciamo, un proprio sviluppo anche culturale. In quest'ottica anche vengono così organizzate delle serate, degli incontri con autrici, con autori, e questa sera ringrazio particolarmente il dottor Steinhaus, che è qui con noi, la ringrazio, è stato presidente della comunità ebraica di Merano e appunto ci presenterà questo libro dal titolo molto interessante e aprirà degli scenari, degli spazi anche per un bel dibattito, 364 giornate dell'indifferenza. Come sapete ci troviamo in un periodo dell'anno dove tutti si impegnano per promuovere la conoscenza di quella che è stata la Shoah, la giornata della memoria che cade il 27 di gennaio, ma tante istituzioni si occupano e cercano di ricordare questo momento e questi episodi della storia recente, e anche la biblioteca si impegna in questo senso con l'aiuto però anche durante l'anno di tanti altri attori. Voglio ricordare questa sera non solo l'associazione AMPI, l'ex presidente è qui con noi, Leonello Bertoldi, ma anche l'avvocato Loner, che alla biblioteca un anno fa ha regalato un fondo dedicato particolarmente al razzismo, alla lotta contro il razzismo, alla Shoah e a tutto quello che ne consegue, ne deriva da quel periodo storico. Sotto c'è anche una mostra dedicata a un libro tremendo, L'educare all'odio, che se avete piacere e tempo potete tornare a visitare nei prossimi giorni. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento di lunedì alle ore 18 in questa sala, che è dedicato a Don Daniele Lunghi, un sacerdote nella Resistenza a Bolzano. Saranno con noi Marisa Anastati, che è l'autrice di questa tesi di laurea, Carla Giacomozzi, che è la direttrice dell'archivio storico di Bolzano, Alberto Conci, che è un docente dell'Istituto delle Scienze Religiose, e Paolo Mazzucato, che è il giornalista RAI, che ci aiuterà in questa serata. Questa sera invece possiamo contare sull'aiuto di Thomas Kager, che è l'editore appunto della casa editrice Rezia, che ha creduto in questo progetto, in questo libro, che vi invitiamo a leggere. In fondo ci sono anche delle copie in vendita. Qui abbiamo preparato un breve saggio, un piccolo saggio di quella che è la nostra bibliografia. Non aggiungo altro, lascio subito la parola ai nostri ospiti, che ringrazio, e cedo il microfono a Thomas Kager. Grazie a voi di essere qui con noi. Allora, per presentare un libro per me occorre stesso, normalmente dove è opportuno cerco un riferimento attuale. Perché per ogni libro che viene pubblicato, che esce, c'è un perché. Noi questo ragionamento, perché lo pubblichiamo, viene fatto normalmente un po' prima della presentazione, cioè quando l'autore viene da noi e ci presenta il suo progetto. In quel momento per noi non abbiamo dovuto a riflettere tanto, perché era ovvio, questo libro è necessario e il perché c'è, è necessario che venga pubblicato ed è necessario che venga letto. Ritorniamo a quel fatto di trovare un riferimento attuale, e quel riferimento attuale non ho dovuto neanche cercare, perché diciamo purtroppo non l'ho dovuto cercare. Tutti voi forse l'avete anche seguito, il 20 gennaio il senatore Elio Lannutti del Movimento 5 Stelle ha lanciato un articolo su Twitter tratto da un sito noto per i fake news, che spiega come le 13 famiglie che comandano il mondo derivano dal gruppo dei Savi di Sion, e che le banche sono controllate da appunto questi Savi di Sion. C'è un fatto incredibile che ancora oggi qualcuno crede in una cosa del genere. un falso del Novecento smascherato già da 100 anni, e appunto succede ancora oggi, e per quello mi sa che più parole non servono per spiegare il perché di questo libro. È proprio necessario. Anche perché, cioè, Lunati poi si è scusato, però si è espresso in modo antisemita anche già prima, non è la prima volta, e per quello penso che era ben consapevole di quello che ha fatto. Il perché di questo libro, allora, esiste, non deve neanche essere spiegato, e altri dettagli poi di questo fenomeno che ancora oggi esiste vengono spiegate dall'autore stesso. Ringrazio la Biblioteca Claudia Augusta che ha organizzato questa serata e questa presentazione, che ci dà spazio per presentare i nostri libri, e ringrazio anche la Ripartizione di Cultura Italiana che con il suo contributo ha reso possibile di pubblicare questo libro. Libro scritto da Federico Steinhaus, come ha già detto Valeria, ex presidente della comunità ebraica di Merano, ha scritto e pubblicato già un paio di libri che trattano queste tematiche, che trattano la storia soprattutto dell'ebraismo, degli ebrei in Alto Adige, però non solo, e ha trattato anche lo Stato di Israele, ha pubblicato anche libri di questo argomento, e con il nuovo libro e con l'antisemitismo che si è sviluppato e in qualche modo anche modificato negli ultimi anni, fa vedere che c'è un forte collegamento con quello che è un anti-israelismo che prima era un antisemitismo. Do la parola adesso all'autore stesso. Grazie. Sì, certo. Ancora un secondo, perché volevo salutare Elisabetta Rossi, che è la presidente della comunità ebraica di Merano, e Jael Ber, che è qui con noi e che ci accompagnano spesso nelle nostre conferenze. Mi scusi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti a sentire quello che voglio dire. Grazie alla casa editrice Rezia e a chi mi ha accompagnato in questo percorso, facendomi anche correggere diverse parti del libro per renderle più snelle e più funzionali. Questo libro non è un elenco di atti di antisemitismo. Questo libro è un percorso che utilizza esempi di antisemitismo per spiegare come l'antisemitismo è cambiato nel corso degli ultimi 100 anni, diciamo. Però si occupa solo dell'antisemitismo successivo alla Shoah. E spiego il perché, riallacciandomi a quello che ha detto il direttore editoriale della Rezia. Quando il senatore Lannutti ha fatto quella famosa scivolata in Twitter, di cui parlava prima, è stato accusato dalla comunità di Roma, dall'Unione delle Comunità, è stato accusato di essere un antisemita, e lui si è offeso e ha detto: io non sono un antisemita, io ho tutto il rispetto per gli ebrei uccisi nei campi di sterminio nazisti. Ora, questa è forse la parte più interessante di tutto l'insieme, perché di complottisti, di gente che ritiene che gli ebrei dominino nel campo della finanza, che dominino i media e magari anche la politica, di questi complottisti ce ne sono tanti, ma che uno neghi di essere antisemita soltanto perché rispetta gli ebrei morti e non si cura di quello che è il contesto degli ebrei vivi, questo è sintomatico, ed è questo che credo si debba tenere presente leggendo questo libro. In questi giorni noi leggiamo, sentiamo, vediamo i film in televisione, i dibattiti, tutti incentrati sulla Shoah, sul passato, sui campi di sterminio nazisti. Ma dell'antisemitismo successivo alla Shoah non si parla, non lo si conosce, o se se ne conosce un paio di episodi non si dà loro una particolare importanza. Io ho voluto, così per mia curiosità, ho voluto segnalare qualche episodio di antisemitismo successivo alla pubblicazione del mio libro, che andrebbe aggiornato di giorno in giorno, ogni 24 ore. E ci sono talmente tante forme di antisemitismo che compaiono nei media o nella politica o comunque sia da parte di individui che hanno un blog, che gestiscono un sito, ce ne sono talmente tanti che è difficile elencarli tutti, è difficile farsene un quadro complessivo. Vi invito a cliccare su Google, sul motore di ricerca, inserendo parole come ebrei, come antisemitismo, come Shoah, come Israele, e vedrete cosa salta fuori. È qualcosa di incredibile. Io seguo su Facebook, seguo ogni tanto quello che scrive Meotti, un giornalista del Foglio che molto filo israeliano, forse anche un po' troppo filo israeliano per i gusti di qualcuno, e leggo i commenti ai suoi articoli. I commenti sono spaventosi. Poi magari nel corso della serata, non voglio dilungarmi più del necessario, ma eventualmente nel corso della serata vi darò qualche esempio anche. Vorrei prima però partire da un altro punto e cercare di chiarire i concetti. Allora, antisemitismo che cos'è? È un odio per gli ebrei che può essere dovuto a mille fattori. Io ho incontrato nella mia vita anche persone che odiavano tutti gli ebrei perché erano state truffate da un ebreo, cose che capitano evidentemente. L'antisemitismo però non va confuso col razzismo, perché il razzismo è un sentimento negativo, un odio per chi non è della nostra cultura o per chi non è, diciamo la parola adulta, della nostra razza. Le razze non esistono, lo sappiamo, la scienza ormai è molto sicura di questo. Però il razzismo, se vogliamo continuare a chiamarlo così, si manifesta nei confronti di chi visibilmente è diverso da noi, cosa che per gli ebrei non è necessariamente così. Una volta gli ebrei venivano dipinti col nasone adunco, con la gobba magari, con la coda e così via. Però pensiamo a oggi. Chi è stato in Israele di voi avrà visto ebrei biondi con gli occhi azzurri come il più puro degli ariani, ha visto gli ebrei etiopi che sono neri come il carbone, ha visto ebrei con gli occhi a mandorla. L'ebreo non è più riconoscibile come era una volta, mentre invece chi appartiene ad un'altra, tra virgolette, razza lo è. Altra cosa ancora è la xenofobia. La xenofobia è l'avversione, l'odio, la paura che abbiamo nei confronti di chi pensiamo stia invadendo il nostro territorio, gli stranieri, che siano della nostra razza o di altre razze non ha importanza, ma ci incutono paura, ci incutono diffidenza. Ora, nel passato ci sono state delle forme di antisemitismo che ovviamente andavano a braccetto anche con il razzismo e con la xenofobia, ma traevano linfa dalla xenofobia e dal razzismo, per poi trasformarsi apertamente in antisemitismo. All'inizio c'è stato l'antigiudaismo religioso, teologico. A me è capitato, e ne parlo anche nel libro, a me è capitato una volta, parlo di 30 anni fa, di organizzare alcuni giorni di festa con balli, canti, buffet di specialità ebraiche, e a un certo punto mi si è parato davanti una giovane coppia altoatesina di lingua tedesca, giovani, che mi hanno guardato, io non li conoscevo, mi hanno guardato e mi hanno detto: ma voi avete ucciso Gesù. Questo è l'antigiudaismo, che poi si è trasformato nel tempo, quando in Francia in particolare ci sono emerse le teorie parascientifiche sulle razze, e questo è un razzismo che poi invece è stato utilizzato in particolare dal nazismo e dal fascismo, con delle forme di persecuzione che sono molto particolari, perché gli ebrei sono un popolo, non sono una razza, e di conseguenza una base razzista dell'antisemitismo non poteva funzionare. E i nazisti e i fascisti avevano cominciato a perseguitare, soprattutto i nazisti con l'Ahnenbuch e con altre forme di verifica, hanno perseguitato anche i nonni e i bisnonni delle persone non di religione ebraica, per vedere se c'era una percentuale di sangue ebraico nelle loro vene. E i fascisti hanno fatto la stessa cosa successivamente. Parlo delle leggi del 1935 in Germania e delle leggi del 1938 in Italia. In questo modo sono state perseguitate persone che non avevano nulla a che fare con la religione ebraica, e nelle mie ricerche ho scoperto il caso di un ragazzo di 18 anni napoletano, che era di una famiglia di antica tradizione cattolica, che nel 38, se non si ricordo bene, ha avuto la pessima idea di convertirsi alla religione ebraica. I fascisti hanno cercato in tutti i modi, in base alle loro leggi, di perseguitarlo, sono arrivati fino sulla scrivania di Mussolini, ma non ci sono riusciti, perché la famiglia era cattolica e di conseguenza lui si è cavato. E oggi abbiamo l'antisemitismo di natura politica, legato strettamente a Israele e al mondo arabo. Qui va precisato che il mondo arabo e il mondo islamico in buona parte, con qualche poche eccezioni, considera che Israele costituisca una ferita insanabile nella umma, nel complesso del mondo islamico, perché è l'unico Stato non islamico, per quanto piccolo, al centro del mondo islamico. Non soltanto, ma è uno Stato democratico, uno Stato di diritto, c'è la parità delle donne e così via, tutte cose che nel mondo arabo non esistono e anzi non sono molto ben viste. E di conseguenza, a parte tutti i problemi politici, territoriali, le guerre e così via, la radice dell'anti-israelismo del mondo arabo e del mondo islamico in buona parte risiede qui. Cos'è successo? È successo che nel 1967, guerra dei sei giorni, gli arabi hanno cercato di annientare Israele, ma Israele ha vinto, non soltanto ha vinto, ha stravinto, e ha conquistato territori degli stati arabi aggressori, l'Altitudine del Golan, la parte orientale della città vecchia di Gerusalemme, il Sinai, Gaza e ovviamente Giudea e Samaria, la Giudea e la Samaria bibliche. Da allora l'Unione Sovietica, che fino a quel momento aveva più o meno tiepidamente appoggiato Israele, da allora l'Unione Sovietica è passata nel campo del mondo arabo, perché attraverso i partiti comunisti occidentali ha fatto apparire gli arabi come dei poveri martiri vittime dei capitalisti israeliani occidentali, e in questo modo ha potuto gettare le sue basi nel mondo arabo, avere a disposizione dei porti nel Mediterraneo che costituivano il sogno dall'epoca degli zar, avere un accesso ai mari caldi attraverso il Mediterraneo. Queste sono le motivazioni politiche dell'antisemitismo e dell'anti-israelismo sovietico, ma questo messaggio è stato trasmesso in tutto l'Occidente e ancora oggi, purtroppo, e lo dico veramente con grande rammarico, è nella sinistra occidentale che noi troviamo questa forma di antisemitismo, questa forma di complottismo, questa forma di avversione anche nei confronti degli ebrei indirettamente, perché è un riverbero dell'avversione nei confronti di Israele. E a questo punto dobbiamo anche ragionare su dove finisce la legittima critica a Israele e dove comincia l'antisemitismo. La critica nei confronti delle politiche israeliane è assolutamente libera e legittima, a cominciare dagli stessi cittadini israeliani, ovviamente, che ogni tanto cambiano governo, cambiano schieramento, e qualunque governo sia al potere, c'è una metà degli israeliani che gli è contro. Il sionismo è stato, dalle origini in poi, un movimento di liberazione e di autodeterminazione del popolo ebraico. Il sionismo è nato all'epoca in cui in Europa le nazioni, i popoli stavano scegliendo il loro destino attraverso varie forme di autodeterminazione e attraverso varie forme di annientamento dei vecchi regimi imperiali. Su questa base il sionismo si è sviluppato e attraverso anche delle forme di favore da parte di potenze coloniali, e parlo soprattutto della Gran Bretagna, i sionisti sono riusciti a ottenere il diritto, il privilegio di avere un focolare nazionale in quella che era la Palestina che non coincide con lo Stato di Israele e che è un'invenzione dei Romani. Quando i Romani hanno conquistato quella regione, hanno creato e hanno dato nome alla Palestina, che a quell'epoca, parlo del 1917-18, prima guerra mondiale, a quell'epoca includeva la Siria, una parte della Siria, una parte dell'Iraq, l'attuale Libano, una parte dell'Egitto. Era molto ampia, molto più ampia di quella che è la Palestina rivendicata oggi dall'autorità palestinese. Ai sionisti bastava avere uno Stato, per quanto piccolo ma libero. E quando ci sono riusciti nel 1948, hanno ovviamente sviluppato questa loro possibilità. Voglio ricordare anche che lo Stato di Israele è nato per volontà delle Nazioni Unite, è stato fondato da una decisione delle Nazioni Unite. Allora, essere antisionisti può significare anche negare agli ebrei il diritto alla autodeterminazione, non necessariamente, ma lo può significare. Molti ebrei non sono sionisti, qualche gruppo, qualche corrente ebraica è stata anche antisionista, ma senza per questo diventare ovviamente antisemita. Per quello che riguarda invece la critica nei confronti di Israele, essere contro la politica di Israele, ripeto, è legittimo. Negare a Israele il diritto di esistere è antisemitismo. Non sempre questa linea di confine è chiaramente individuabile, non sempre, però quasi sempre, perché quando noi vediamo cosa succede per esempio all'Università di Torino, in cui periodicamente è proprio in coincidenza con queste cerimonie della giornata delle memorie, si organizzano manifestazioni studentesche o di professori contro Israele, il significato è abbastanza chiaro. Quando il 25 aprile le organizzazioni, inclusa l'AMPI, a Roma, Bertoldi lo sa, impediscono, vogliono impedire alla brigata ebraica che ha combattuto con i partigiani e con gli alleati contro i nazisti in Italia di sfilare con la bandiera dello Stato di Israele, che era anche a quell'epoca, prima dello Stato di Israele, era la bandiera della brigata ebraica, lì siamo anche, direi, nell'antisemitismo più stupido, ma perché l'antisemitismo può anche avere una base meno stupida di questa. Ecco, credo che questo tipo di ragionamenti nel libro risulti evidente, anche perché nel libro io ho fatto molti salti cronologici, andando avanti e andando indietro, entrando nella storia dell'Alto Adige, uscendo dalla storia dell'Alto Adige per entrare in quella italiana o europea, perché è il concetto che mi interessa, non tanto la quantità di atti antisemiti, ma la loro qualità, il loro significato, le loro origini. Posso, se volete, ancora ascoltarmi per qualche minuto, una decina di minuti, posso leggervi qualche esempio. Prima però vorrei leggervi quello che ha detto l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e ha detto che in particolare ho sempre inteso come non separabile da quella aberrazione storica, cioè l'antisemitismo, anche l'ideologia dell'antisionismo, vero e proprio travestimento dell'antisemitismo. Le stesse cose, lo stesso concetto è stato espresso dall'attuale Presidente della Repubblica nella cerimonia di insediamento al Parlamento. E posso anche aggiungere che l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali dell'uomo ha, in un suo rapporto, ha scritto nel 2009 che l'antisemitismo appare la quarta emergenza più urgente nei paesi coinvolti dall'indagine dopo la disoccupazione, lo stato dell'economia e la corruzione. E in testa a questa lista di paesi in cui l'antisemitismo è particolarmente virulento troviamo, è sempre il rapporto dell'Unione Europea, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, la Lettonia, la Svezia e l'Ungheria. Io aggiungerei con gradazioni molto diverse, perché non credo che si possa confrontare la quantità e qualità dell'antisemitismo italiano con quello francese. E questo dipende anche, o quello belga, dipende anche dalla quantità di immigrati o nativi musulmani che ci sono. Il Belgio e la Francia e anche l'Inghilterra erano nazioni che avevano molte colonie nell'Africa settentrionale, in Medio Oriente, e di conseguenza hanno varie forme di immigrazione che gradualmente si sono bene o male inserite nel tessuto nazionale. Ma fra queste forme di immigrazione ci sono ancora, e purtroppo in particolare nella seconda generazione, ci sono ancora molte forme di antisemitismo. Posso citarvi un paio di citazioni sull'attualità. La senatrice del Movimento 5 Stelle Marinella Pacifico, che ha accusato Roberto Saviano e Laura Boldrini di essere sionisti, e ha scritto: vuoi potere, fama e ricchezza, diventa massone uguale sionista. Ecco la classe politica che ci ha governato. E poi, siccome in questi periodi particolari ci sono le autorità dello Stato, i sindaci, i presidenti della provincia che vanno a visitare le sinagoghe, a incontrare i capi delle comunità ebraiche, questa senatrice Pacifico scrive che queste persone sono servi dei loro padroni sionisti e parla di macro patronato israeliano come responsabile degli attentati a Parigi del 13 novembre 2015. Sono le stesse accuse che erano state mosse da altre parti in passato agli ebrei di aver collaborato con i nazisti nello sterminio degli ebrei stessi. Questo è un manifesto, non è un manifesto, è uno striscione dei gilet gialli francesi, e il senso è lo stesso: Macron è la puttana degli ebrei. E sono i gilet gialli che lo dicono. Vorrei anche citare qualche altro personaggio, un altro grillino che ha una pagina Facebook, scrive: io sono dichiaratamente antisemita, desidero vedere Israele bruciare per avere la pace nel mondo senza questi sionisti terroristi che si arricchiscono lucrando sul resto della popolazione. Complottismo che troviamo abbastanza diffuso in quel movimento politico. E poi ci sono blog razzisti, antisemiti, più non posso, però vorrei parlo di tutte cose successe quest'anno. Cioè quest'anno da dicembre in poi, e c'è poi una candidata alle prossime elezioni del Consiglio Provinciale di Trento, che sono ormai passate perché qui stiamo parlando del luglio 2018, che ha pubblicato un post nel quale dice che gli ebrei intendono trasformare il popolo europeo in una razza mista di asiatici e negroidi governati dagli ebrei. Candidata al Parlamento provinciale. Altro, questo è ancora dell'ottobre, vediamo, Repubblica. Allora, una dipendente dell'hotel Kempinski all'isola di San Clemente ha scritto nella sua pagina Facebook: fosse per me riaprirei i campi, se è dai tempi degli egizi che li perseguitano un motivo ci sarà. Altre cose che posso citarvi: il sindaco del comune di Gazzada, in Varese, provincia di Varese, Cristina Bertuletti, gennaio 2018, nel suo profilo Facebook scrive: visto che il giorno, scusate, leggo, non è colpa mia quello che leggo. Visto che è il giorno della memoria, ricordate di andare a pigliare un culo. Hanno rubato le pietre di inciampo, hanno disegnato plastiche sulle tombe degli ebrei, e questo è un modo per negare quello che è successo, cancellare la memoria. E il negazionismo è una delle forme più virulente insieme al complottismo, perché portano degli argomenti pseudoscientifici e di conseguenza ci sono delle persone che possono anche crederci, come ci sarà stato qualcuno che ha creduto alle scie velenose degli aerei, immagino. Un sito web dedicato alla politica estera che parla di politica internazionale. Se non sbaglio siete rimasti solo qualche milione, un altro Hitler e puff, non ci siete più. Diciamo che negli ultimi 3.000 anni non ne avete azzeccata una. Sono commenti di lettori, non è il blog, sono commenti di lettori. Tanto prima o poi finiranno anche loro, gli israeliani, a fare le docce e poi via per il cammino evaporando come i 6 milioni di scarafaggi che li hanno preceduti. La storia si ripete, il karma marcio non farà che riportare le conseguenze che essi stessi si stanno creando con le loro azioni da vermi. Ecco il collegamento Israele-Ebrei. Prima o poi l'Iran avrà le sue armi nucleari, poi andremo a ridere se i semiti con il naso lungo andranno ancora a fare i bulli per il Medio Oriente. Il numero di 6 milioni è da tempo accertato che esiste solo nella tradizione ebraica. Quanto alle docce, camere a gas, è pure accertato che non abbiano avuto l'utilizzo indicato. Altro commento, abbi rispetto per il dottor Goebbels, ha contribuito parecchio alla disinfestazione e deratizzazione dell'Europa ariana dalla feccia semita. Altro ancora, il cammino ad Auschwitz per me è stato una gioia. Dinanzi a tutto questo, che è sono forme di antisemitismo alla fin dei conti molto stupide, perché si basano su concetti assolutamente dimostrati come non veri, ma al di là di questo vorrei, concludendo, parlare un attimo anche delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite purtroppo sono governate, nelle cose che riguardano Israele, sono governate da quelle che si chiamano le maggioranze automatiche, cioè gruppi di paesi che quando si tratta di votare sono compatti contro Israele. Vi porto soltanto un esempio dell'Assemblea Generale del 2018, cioè di pochi mesi fa. L'Assemblea Generale del 2018 ha votato 21 condanne contro Israele, una condanna contro l'Iran, una condanna contro la Siria, parlo di diritti umani naturalmente, una condanna contro la Corea del Nord, una contro la Russia, una contro Myanmar, zero contro la Cina, zero contro Hamas, zero contro Pakistan, zero contro l'Arabia Saudita, zero contro la Turchia, zero contro il Venezuela. Poi ovviamente si legge sui giornali che le Nazioni Unite hanno condannato Israele per un qualsiasi motivo. Hanno condannato Israele per gli scavi archeologici, l'UNESCO, dove adesso siede Lino Banfi. Hanno condannato Israele per delle cose assolutamente legittime. Dicono che gli ebrei, non hanno alcun legame con Gerusalemme. Negano che il muro del pianto, cosiddetto muro del pianto, abbia un qualsiasi valore religioso, per la religione ebraica. Ora, se vogliamo catalogare queste menzogne, possiamo di nuovo ripetere che sono stupide, ma alla fine dei conti quello che veramente preoccupa è che c'è sempre qualcuno che ci crede. Non parlo di Israele, ma un mio amico una volta, parlo di un anno fa, poco più di un anno fa, così ci siamo fermati a chiacchierare, ci conosciamo da molti anni, è una persona di una certa cultura, di un certo rango sociale, e mi ha detto, convintissimo, che le Torri Gemelle di New York sono state abbattute da George Bush perché aveva vinto le elezioni con un margine molto ristretto e di conseguenza in questo modo voleva allargare il suo consenso. Siamo a questi livelli. Questa persona, che ripeto, non è uno stupido, assolutamente, ci crede, o ci credeva, io non so se sono riuscito a convincerlo del contrario, ma in quel momento ci credeva e me lo diceva come un fatto certo. Allora, in questo libro, è concluso, in questo libro io faccio seguo un percorso in cui alterno l'Alto Adige e la situazione generale di contorno e indico anche molti nomi, nomi e cognomi. Io credo che chi di voi leggerà questo libro troverà molte cose sorprendenti, sia come nomi e cognomi sia come fatti che non si sanno. Io spero che questo libro serva, che serva soprattutto ai giovani, che serva a riconoscere le forme di antisemitismo negli altri, a riconoscere pregiudizi, e qui voglio sottolineare che esiste anche il pregiudizio positivo, perché se qualcuno mi dice gli ebrei sono tutti intelligenti, io dico non è vero, gli ebrei sono come gli altri, ci sono quelli intelligenti, ci sono quelli stupidi. È lo stesso pregiudizio, l'altra faccia della medaglia, di chi dice gli ebrei sono tutti ricchi, e troverete un esempio di un personaggio altoatesino che su questa base ha negato un contributo alla comunità ebraica di Merano. Ecco, queste sono le cose che in qualche modo devono costituire, andare a costituire un, passatemi la parola un po' forse troppo forte, un patrimonio di conoscenza nei giovani, un qualche cosa che modifichi la loro visione, non soltanto nei confronti degli ebrei, ma in generale nei confronti dell'altro, perché alla fin dei conti l'ebreo è la vittima di un pregiudizio che continua nella storia, ma è anche la vittima di un ruolo di capo espiatorio. Ricordiamoci che per secoli e secoli gli ebrei non hanno avuto la possibilità di reagire agli insulti, alla violenza, alle angherie che venivano praticate contro di loro. Non avevano questa possibilità, perché erano una vittima facile. Non soltanto, ma indicando gli ebrei come responsabili di qualsiasi male, le dittature, in particolare parlo degli zar, parlo di quello che abbiamo vissuto in Europa, le dittature potevano deviare verso gli ebrei, nei confronti degli ebrei, il malcontento popolare, cosa molto efficace quando, come succede adesso in Europa, purtroppo, siamo dominati da diffidenza, da paura, da un qualche cosa, dall'incognita del futuro. C'è una crisi economica, c'è una crisi di valori, c'è una crisi di prospettive per il lavoro, per qualsiasi altra cosa che ci possa interessare dal punto di vista personale. Abbiamo un futuro incerto davanti a noi in Europa, qualunque sia la causa. Ora, se si indicano gli ebrei come responsabili, evidentemente è facile trasferire su di loro il malcontento, e questa è la spiegazione delle farneticazioni complottiste che vediamo. Poi ci sono le altre, ma il complottismo deriva da questo. Io mi fermo qui, ma se avete delle domande io sarò lieto di rispondere nei limiti in cui mi sarà possibile. Prego. Nel Sud Tirolo la storia c'è, ma non si vede. È sfuggente, piena di omissioni, dimenticanze, false immagini, pure invenzioni, come quando si minaccia di ricorrere alla potenza austriaca, dimenticando che era tale quando gli austriaci chiamarono sprezzantemente la Ringstrasse Zionstrasse. Certo è che il fettore nazista si avvertiva nettamente nelle valli del Sud Tirolo, sia prima che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti molte furono le vie di fuga organizzate localmente per i peggiori criminali naziste, propiziate anche dal clero locale. Un deposito torbido nel fondo, una melmetta che è bene non rivestare perché appena smossa intorbiderebbe anche tutta l'acqua che sopra invece si mantiene limpida. C'è però da dire anche che nel mentre la Germania, ex nazista, esprimeva Willy Brandt, l'Austria unicamente Kurt Waller. Sento infine la necessità di dire fortemente: never, never, never, never, never, 5 volte. Come quando Ralia entra di scena portando la figlia uccisa tra le braccia. Mai più. La domanda è questa: per quanto tempo dovremo ancora sopportare, qui nel Sud Tirolo, silenziosamente, quelle che il direttore dell'Antovaggio Alberto Rossini chiama svisse? Grazie. Ma dunque, io credo che abbiamo superato, abbiamo scolminato, abbiamo superato questo versante. Nel libro io porto molti esempi positivi di convivenza tra le istituzioni e la comunità ebraica, che sono abbastanza recenti, devo dire. Se partiamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in tutti questi anni siamo arrivati a cambiare 2 generazioni. Questa è la terza. Parlo dei governanti, ma parlo anche della popolazione. E questo è significativo. La prima generazione del dopoguerra, che io chiamo l'era Magnago, tanto per capirci, è stata un'era di antisemitismo strisciante, in cui l'antisemitismo, anche a livello individuale, era tollerato, era, come si dice in tedesco, salonfähig, era legittimato. Ed era legittimato in particolare per il fatto che Magnago, nell'ambito politico del suo partito, del suo giro di potere, si era circondato di molti ex nazisti o nazisti, che erano stati riciclati sostanzialmente. Non dobbiamo dimenticare poi che l'Alto Adige è stato terra di rifugio per i criminali nazisti, non soltanto tedeschi e austriaci. Perché sono venuti qua? Perché qui si potevano mescolare a una popolazione di lingua tedesca e di conseguenza sparire un pochino alla vista, ma anche perché sapevano che non avrebbero incontrato particolari opposizioni o resistenze. nella mia lunga storia passata, una volta mi è capitato un contadino di Marlengo che è venuto da me, io non lo conoscevo, un contadino, una persona semplicissima, e mi ha detto, io ero antinazista, mi hanno anche denunciato e portato via. E io gli ho detto, ma perché non lo racconta? Dobbiamo sapere che in Alto Adige c'era qualcuno che era antinazista. E lui mi ha risposto, ma io a Marlengo ci devo vivere. Allora, questa era l'atmosfera a quell'epoca. Con Thunwalder si è fatto un grosso passo avanti. Vedo qui l'amico Frasnelli che può testimoniare molte delle cose che io dico. Si è fatto un grosso passo avanti e adesso con l'attuale giunta provinciale ancora di più, credo. I rapporti con la Chiesa fin dall'epoca del vescovo Eger sono sempre stati eccellenti e di conseguenza su questo non ci sono assolutamente problemi. Abbiamo poi, e questa è una cosa che ha stupito per prima cosa me stesso, per il coraggio di questa persona, abbiamo poi un redattore capo del Dolomite, Tony Ebner, che ha pubblicato l'anno scorso 2 pagine del Dolomite con i nomi di tutti gli ebrei deportati dall'Alto Adige, mettendo la stella di Davide sulla prima pagina in alto dove ce l'ha scritta l'intestazione del giornale, e credo che farà qualche cosa anche quest'anno. In particolare credo che lo faccia domani, comunque vediamo. E ci vuole il coraggio ancora oggi per farlo. Sicuramente lui si trova di fronte a delle persone che lo criticano, si trova delle persone che magari gli tolgono il saluto, non lo so, non sono nei suoi panni, però è coraggioso, è onesto. Allora, questo è l'Alto Adige di oggi. Nel 2012 abbiamo organizzato come comunità ebraica a Castel Tirolo, cioè il simbolo del Tirolo, abbiamo organizzato una mostra sulla storia della comunità ebraica dell'Alto Adige, e qui vedo con piacere anche Uri Eger, che è stato colui che l'ha realizzata materialmente, ed è stata visitata da talmente tante persone che hanno dovuto prolungare l'apertura per diversi mesi. Anche questo è un sintomo. Ci sono stati dei risvolti negativi, ne parlo nel libro, ma non ha importanza. Il fatto è che quella mostra si è fatta e che è stato pubblicato un catalogo di 2 chili che la illustra, tutto a spese dell'ente pubblico. Ecco, questa è forse una risposta, non lo so. I tempi sono cambiati, in futuro non lo so. Io spero molto nei giovani. Abbiamo un museo ebraico a Merano, nell'edificio della sinagoga, che viene visitato con grande frequenza da scolaresche stimolate a farlo dagli assessorati provinciali alla cultura, e questo succede da 20 anni. Allora qualche frutto dovrà esserci in futuro, e io su questo sono ottimista. Mi devo tranquillizzare. Vediamo. Buonasera, dottor Steinhaus. Io volevo che lei rispondesse, però non a una mia domanda. Accetto la voce. Mi sente? Sì, io sì. Buongiorno. Volevo che lei mi rispondesse, però non a una mia domanda, ma a una mia osservazione. Io le parlo qua in veste di persona che ha dei parenti di origine ebraica, che è di famiglia ebraica, che è anche israeliano, e che però è anche laureato in scienze politiche, sono laureato in studi internazionali, e io dal punto di vista intellettuale credo di avere molto poche virtù, anzi probabilmente nessuna. Però io sono vizio, però ho solo vizio di cui però vado fiero, cioè quello di guardare in faccia la realtà. E la mia sensazione è che sostanzialmente la battaglia contro l'antisemitismo o l'antisraelianismo sia una battaglia persa. Lo dico con affetto, ma lo dico con dispiacere, però lo dico quello che secondo me è la condizione di caldo, cioè io tendo a guardare le cose in faccia molto, anche a costo di vederla in maniera traumatica, di restare in maniera traumatica. Io penso che forse la cosa peggiore dopo perdere una guerra sia quello di non ammettere di averla persa. Perdere una sconfitta ci sono, non vuole guardare in faccia una sconfitta. Per cui secondo me, dal punto di vista storico e culturale riferito al rapporto fra gli ebrei e l'Europa, io penso che l'antisemitismo sia talmente embedded, come si dice in inglese, talmente interiorizzato a livello della consapevolezza anche dell'inconscio, del subconscio europeo, che non possa essere estirpato in nessun modo, perché è troppo parte dell'Europa. L'Europa in un certo senso si è formata anche grazie agli ebrei, ma anche per antitesi agli ebrei, e questo ha prodotto anche l'antisemitismo, che in un certo senso è parte integrante della storia europea. E altrimenti non si potrebbe spiegare per quale motivo l'antisemitismo si sia potuto comunque costantemente essere presente e si sia potuto sempre costantemente rigenerare nel corso di 2000 anni, dalla sua prima fase religiosa, è passata una fase sociale, quella in cui gli ebrei erano accusati di essere portatori della peste, ad una fase economica, quella in cui sono stati accusati di essere troppo ricchi, ad una fase razziale, quella in cui sono stati accusati di essere inferiori, per arrivare ad oggi ad una fase politica legata allo Stato di Israele. Chiaramente poi dopo le fasi si possono anche sovrapporre, riproporre, eccetera. Ma alla fine l'antisemitismo è comunque un virus che si presenta sempre in un modo o nell'altro, ed è qualcosa che comunque, un fenomeno che comunque è un abito che va bene in tutte le stagioni, con qualche modificazione, con qualche cosa, eccetera. Quindi io sono arrivato personalmente alla conclusione, e vorrei sottolineare su questo, che sia qualcosa che a un certo punto sia inestrinsecabile, ineviscerabile dalla cultura e dalla consapevolezza anche dal subconscio europeo. È proprio parte degli europei. Allora io direi, per esempio, ho sempre pensato una cosa di questo tipo, e sottolineo 10.000 volte in rosso, perché io mi ritengo una persona assolutamente moderata, lo penso e basta, ma non è qualcosa che ha un risvolto pratico, lo dico solo dal punto di vista teoretico-filosofico. L'unico modo per estirpare l'antisemitismo in Europa sarebbe, se uno proprio volesse estirpare gli europei, perché nel momento in cui un bambino nasce, il poveretto piange incontinenti tutto, è un po' difficile capire sul momento se era madre futura del figlio o era una futura madre Teresa di Calcutta. A quel punto uno dice, ogni bambino che nasce in Europa gli spara in testa, oppure uno dice, mi prende il rischio che la persona, questo bambino che nasce, possa essere antisemita, come c'è una certa probabilità che ci sia, visto che nasce europeo. Questa è la questione fondamentale. O vogliamo vederla, o se no stiamo sparando proiettili nel deserto. Ma nel deserto di carta, verso nessuno. Bisogna accettare che secondo me che questa è la situazione. Ora, ogni ebreo, ogni israeliano può prendere una decisione di decidere: vivo in Europa o non vivo in Europa? Direi che ci sono tante domande, lasciamo un attimo lo spazio, raccogliamo un po'. Sì, raccogliamo anche magari. Allora, era un po' confuso quello che ha detto. Possiamo, posso chiedere, ci sarà ancora una domanda, così magari mi capisco. Sì. Sono Alberto Stemico e sono presidente di un'associazione che si chiama Antisemitismo, che da circa 10 anni si occupa di, in qualche modo, di far conoscere in Israele la soluzione che si è trovata qui nella provincia di Bolzano per quanto riguarda la tutela delle minoranze e la convivenza tra i gruppi etnici. Forse qualcuno potrà pensare, insomma, che la cosa è troppo ambiziosa, però devo dire che in questi 10 anni le cose invece sono cresciute in senso positivo, e in questo modo confermo l'analisi più ottimistica che il dottor Steinhaus faceva nell'ultima parte del suo intervento. In novembre scorso, che ho avuto qui una delegazione paritetica di esponenti politici della società civile israeliana, quindi paritetica, quindi ebraica naturalmente, e anche però della minoranza araba, che ha visitato per un po' di giorni la nostra provincia, e alla fine di questa visita devo dire che il giudizio di tutti era di aver ricevuto in qualche modo anche un segnale di speranza. Ci hanno detto, per come eravate partiti, per come era la vostra storia, poteva andare anche molto peggio, si sforzavano, e questa soluzione di mediazione che avete adottato con lo Statuto d'autonomia ci dà qualche spunto per trovare anche qualche soluzione all'interno del nostro paese. Quindi devo dire che le parole più ottimistiche in questa delegazione ce l'ha espresse l'esponente tetrarico, che peraltro è un ex generale dell'esercito e esponente del partito sionista, che ha detto: bravi, noi guardiamo esempi come questi per cercare di capire se si può trovare una soluzione più, diciamo, di prospettive di pace anche all'interno del nostro paese. Volevo dire che nella provincia autonoma di Bolzano il presidente Compace ha seguito questa iniziativa e ha dato il massimo sostegno anche per il suo proseguimento. Ti ringrazio. Provo a rispondere brevemente a tutti e due. Innanzitutto l'idea che l'antisemitismo non sia estirpabile. I nazisti ci hanno provato, non eliminando gli europei, eliminando gli ebrei. Ricordiamocelo, e non ci sono riusciti fortunatamente, ma soltanto per caso, perché hanno perso la guerra. E che l'antisemitismo faccia parte, come tutte le forme di odio, di paura nei confronti dell'altro, del razzismo, pensiamo a noi stessi, al nostro atteggiamento nei confronti degli zingari, tanto per capirci un po' meglio. Ecco, questo fa parte della natura umana, non è estirpabile, ma per quello che riguarda l'antisemitismo, io voglio sottolineare una cosa che è specifico dell'Europa cristiana, cattolica, luterana, quello che si vuole, ma è specifico e non è rintracciabile al di fuori dell'Europa nelle forme in cui lo conosciamo noi storicamente. Questo è molto significativo. Se guardiamo anche soltanto il mondo islamico, ma l'Africa, l'America, il Giappone, la Cina, quello che vogliamo, queste forme di antisemitismo che abbiamo vissuto per 2000 anni qui non ci sono, non le conoscono. Possono conoscere l'antisemitismo politico, forse, di riflesso rispetto a quello che proviene loro da altre fonti. Perciò credo che l'antisemitismo inevitabilmente faccia parte della natura umana. Voglio ricordare una cosa, così come una delle origini della diffidenza nei confronti degli ebrei. Quando nel Medioevo in Europa pochissimi sapevano leggere e scrivere, gli ebrei, che erano chiusi in quartieri, non erano ghetti, ma erano comunque in quartieri separati dal resto della popolazione, ma gli ebrei fin da piccoli sapevano leggere e scrivere, non soltanto, ma sapevano parlare in una lingua che nessuno capiva, che era l'ebraico. E questo inevitabilmente suscitava diffidenza, perché se noi oggi vediamo un gruppetto di, parliamo sempre per esempi concreti, un gruppetto di arabi che parlano fra di loro in arabo, prestiamo inevitabilmente un po' più di attenzione rispetto a un gruppetto di concittadini che parlano nella nostra lingua. E ci poniamo la domanda: ma di cosa stanno parlando? Staranno mica organizzando un attentato? Allora, questo è parte della natura umana. Per quello che ha detto giustamente Alberto Stenico, conosco Yannick Cingoli da moltissimi anni, conosco la sua attività e so che da ancora prima che se ne occupasse Cingoli, qui ci sono state delegazioni di professori universitari israeliani, non arabi, israeliani, che hanno cercato di studiare e conoscere meglio la realtà altoatesina, e parlo di anni in cui la convivenza non era così felice come oggi, perché pensavano di poterla replicare anche tra israeliani e palestinesi. Il fatto che molti israeliani siano fortemente convinti della necessità della pace con i palestinesi, fortemente convinti che questa pace si possa ottenere solamente avendo due stati autonomi, quello ebraico e quello arabo-palestinese, che vivano uno a fianco dell'altro senza cercare di ammazzarsi a vicenda, questo è un fatto estremamente positivo. Ma invito Alberto e chiunque altro a cercare i pacifisti nel mondo islamico. Sarà difficile trovarli, perché non perché non ci siano, ci sono, ma hanno paura di rivelarsi. E parlo soprattutto del mondo palestinese. Nel mondo palestinese noi abbiamo anche Hamas e Hezbollah che vogliono annientare Israele, ma abbiamo l'autorità palestinese che nella sua bandiera ha lo Stato, ha la Palestina senza Israele. Dobbiamo cercare di capirci, e dobbiamo capire soprattutto una cosa, che la pace si fa tra nemici, ma si fa tra nemici che vogliono entrambi la pace. Allora, se è uno solo dei due che la vuole e l'altro non la vuole, è difficile arrivare a un accordo. Al di là di quello che penso io, la mia è un'osservazione che non ha nulla a che vedere con le mie opinioni personali, ma è l'osservazione di uno storico che si occupa di Medio Oriente da diversi decenni. E io mi auguro che si trovi un partner, mi auguro che la situazione possa evolversi per il meglio per tutti, e credo anche che negli stati arabi, non parlo dei palestinesi, ma parlo dell'Arabia Saudita, parlo degli stati, degli Emirati, degli stati del Golfo Persico, ci siano in questo momento dei movimenti sotterranei ancora non emersi chiaramente di avvicinamento a Israele, per un motivo semplicissimo: gli stati del Golfo Persico e l'Arabia Saudita temono fortemente l'Iran. È l'unico stato che è in grado di controbattere all'aggressività dell'Iran e Israele, e di conseguenza questo grimaldello potrà aiutare anche forse una situazione a emergere, una situazione che potrebbe non piacere ai palestinesi. Questo è chiarissimo, perché se gli stati arabi decidono di riconoscere lo Stato di Israele, che ne dicano i palestinesi, ovviamente prendono una decisione non molto condivisibile da parte dei palestinesi stessi. Ecco, però in questo momento è questa la sensazione che ho, che stiamo andando in questa direzione. Ci vorranno ancora forse degli anni, ma a me pare che stiamo andando in questa direzione. Volevo chiedere, nel periodo Magnago, escludo Farnelli qui presente, che era poi emarginato, lui era della corrente, c'era una banda di nazisti che non perché lui in teoria parlavano sempre di fascisti, che qui hanno fatto disastri, no? Ma non hanno mai parlato di nazisti, mai. Questo che è una cosa incredibile, e soprattutto i partiti italiani non hanno mai tirato fuori questa storia, non li facevano mai osservare la situazione, i vari membri, sono passati da lì, meno con la firma della Croce Rossa e la controfirma di quel prete di Sicilia Rosa, quando firmava per mandare in Argentina, questi non hanno mai parlavano solo di quello che ha combinato quel delinquente di quel gettato prete. Era un altro ecco, prima non si poteva toccare. Adesso, ecco, questo qua mai non da fuori, mai, mai. È un'altra colonna di città. Quel Mengele, adesso è uscito un ultimo libro, e l'angelo di Auschwitz, la teoria, no? Quelli piano piano, che avevano una fabbrica, sono suoi parenti, sono suoi. Alla piano c'era uno che faceva tra tutti. Chi è questo figlio? Mengele, so che era un parente, ma non sono stati con il figlio. A Milano c'era la moglie di Mengele. Sì, quello sì, era il figlio che era. No, ma c'era, perché il padre di Mengele aveva un bambino. Una fabbricatura e aveva inventato un sistema per spargere le tasse in tempo. Ma questo qui, secondo me, era il suo parente stretto. E si dice anche che sia stato qui, che sia sfuggito ai carabinieri per cento. Questo è anche questa storia qui, Io sono del parere che i parenti dei criminali non sono necessariamente criminali, che prima di definire criminale qualcuno bisognerebbe un traccio di prova. Solo se non quello. No, e di conseguenza io su questo sono anche prudente, anche perché io ho ricevuto nel corso dei decenni, ho ricevuto sempre molte segnalazioni di possibili aiutanti dei nazisti, ma non ho mai avuto una prova nei loro confronti, di conseguenza non soltanto in base al diritto ma anche in base alla coscienza, se non hai prova che la persona è innocente o presunta innocente, va assolta per mancanza di prova, no? Sì, ovviamente parenti, figli che sia di Martin Bormann o di altri incriminati gerarchi nazisti, ne abbiamo avuti tanti e ne abbiamo ancora qualcuno, e qualcuno di loro è antisemita, però non sono criminali, no? E questo è il punto, non hanno condiviso i crimini dei loro genitori o del marito. Perché c'era quel contadino di Sarentino che è finito in un campo di sicurezza di concentramento, Tate si chiamava, non so se lei è al corrente, mentre Magnago ha indossato la divisa della Verma, tanto per intenderti, mi sembra che non ci siano altre domande o osservazioni. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione.